Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata e benvenuti a tutti a Salva Danaio, buon inizio settimana, non certo dal punto di vista meteorologico, perché insomma questo grigiore continua ad incupire un po' tutti ancora, ma noi cerchiamo di rallegrarvi parlando di belli argomenti, soprattutto che riguardano i nostri soldi. Allora, se quest'anno abbiamo intenzione di rimettere mano di nuovo magari a qualche lavoro in casa, rifare la cucina, oppure dotarci di un due ruote, insomma, per scorazzare per le città, magari cercando di evitare il più possibile di inquinare il posto in cui abitiamo, allora abbiamo tutto il pacchetto incentivi che è stato varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Un nuovo pacchetto per stimolare i consumi, sostenere i settori particolarmente colpiti dalla crisi. Si tratta di circa 300 milioni di euro che finanzieranno, fino ad esaurimento delle somme stanziate, gli sconti fiscali in diversi settori. Non tanto sconti fiscali, in realtà gli sconti saranno anche diretti nell'acquisto, appunto, soprattutto per gli elettrodomestici. Poi ve ne parleremo diffusamente nel corso della puntata. Mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica, insomma tanti i campi toccati. Anche se qualcuno ha già detto che si poteva fare qualcosa di più relativamente all'ammontare per ogni settore, ma in qualche maniera è anche riconosciuto che insomma la coperta è troppo corta e quindi si è cercato di accontentare un po' tutti dando pochino a tutti. Gli incentivi saranno operativi dal prossimo 6 aprile. Noi oggi a Salva Danaio ci focalizziamo soprattutto sulla casa e sugli incentivi per appunto le cucine componibili, gli elettrodomestici e sulle due ruote. Quindi i nostri interlocutori di questa mattina saranno Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che ha già riempito diverse pagine del quotidiano in questo fine settimana. De Stefani, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. E poi tra qualche istante, come promesso anche questa mattina, a Soldi e Dintorni, ci collegheremo con Claudio De Viti, direttore della sezione moto dell'ANCMA, che è l'associazione appunto nazionale cicli e motocicli di Confindustria, e con lui faremo un po' il punto proprio sugli incentivi per l'acquisto delle due ruote. C'è tutta la partita anche dello scooter elettrico, che è molto interessante, anche se in Italia non è che se ne comprino poi molti, però insomma se qualcuno fosse interessato alla materia adesso ha anche l'incentivo appunto del governo. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. C'è già qualcuno che comincia a chiedere delucidazioni sull'eco casa. Noi stamattina vi daremo le indicazioni di massima contemplate da questo decreto, poi ci torneremo molto più nel dettaglio in prossime puntate di Salva Danaio, così come rifaremo il punto anche sul tema della ristrutturazione della casa e dei lavori di manutenzione straordinaria, perché come sapete questo pacchetto appunto varato venerdì prevede anche l'eliminazione della DIA per l'avvio dei lavori, la dichiarazione di inizio attività al comune, quindi insomma una velocizzazione delle procedure notevole, e magari torneremo più nel dettaglio anche su quello. Per oggi rimaniamo appunto agli elettrodomestici e alle due ruote, magari se volete anche alle macchine per uso agricolo e alle altre cose che stamattina soprattutto Luca De Stefani potrà dirci. Vi ho ricordato il numero verde per intervenire, vi ricordo che l'altra modalità per interagire con noi è il 349-238-6666, il numero che potete utilizzare per i vostri messaggi. Don bentornato a Carmelo Lauricelli, il nostro tecnico di regia questa mattina, che si era preso qualche giornata di vacanza forzata per rimettere a posto un braccio. Siamo contenti di rivederlo, e noi invece adesso andiamo a vedere cosa succede in borsa. Giornata cupa di inizio settimana per i listini europei, abbiamo un bilancio in rosso di un punto percentuale sulla piazza parigina, abbiamo Francoforte che perde lo 0,8%, abbiamo Londra che perde lo 0,81%, Milano meno 0,98%, quindi un punto di ribasso per Piazza Affari. La mattinata era partita male per le borse europee, ma poi si è aggravata la situazione nel corso appunto delle ore. Ci sono un po' di temi, sempre la Grecia a ovviamente non tranquillizzare particolarmente l'animo degli investitori. Stamattina è arrivata anche la notizia, anzi in realtà è arrivata nei giorni scorsi, di una stretta sui tassi di interesse operata dalla Cina per il timore che si riaffacci l'inflazione, e quindi insomma altre economie stanno continuando a farlo, e di conseguenza si teme che questa stretta prima o poi si affacci anche da quest'altra parte, quindi in Europa e anche negli Stati Uniti, anche se le autorità competenti promettono che al momento non lo faranno, ma in ogni caso tanto basta appunto a rendere un po' di malumore gli operatori. Geox e UbiBanca sono i migliori titoli di Piazza Affari in questo momento, guadagnano un punto. UbiBanca ha comunicato i dati del 2009 nei giorni scorsi, il mercato continua a sostenere il titolo, evidentemente conti che sono piaciuti, al contrario di quello che è successo per Banca Intesa, che continua a scendere già come ha fatto venerdì scorso e anche oggi perde 2,5 punti, peggior titolo di Piazza Affari. Fiat -2,40, Unipol -2,27, Popolare di Milano -1,89, Buzzi Unici -1,66%, prezzi del petrolio intorno agli $80 al barile, euro su dollaro a 1,3520. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ecco il quadro degli incentivi varati dal governo venerdì. Dall'acquisto di motocicli a quelli per le cucine e lavastoviglie, dagli aiuti per immobili ad alta efficienza energetica ai bonus per internet veloce per i giovani. Tornano dal prossimo 6 aprile gli incentivi del governo per il 2010 con una novità, il meccanismo del semaforo. In sostanza, esaurite le risorse, si blocca lo sconto. Per quanto riguarda il capitolo casa, via libera allo sconto del 10% fino a un tetto massimo di 1.000 euro per chi acquista una cucina nuova, mentre per la sostituzione di singoli elettrodomestici, purché ad alta efficienza energetica, lo sgravio è del 20%, ma i tetti di spesa sono differenti. Da 80 euro per i forni elettrici alle 500 euro per la cappa elettrica. Ma le novità per la casa non si esauriscono qui. Per l'acquisto di abitazioni a basso impatto energetico è previsto un contributo fino a 7.000 euro in base al risparmio energetico garantito dall'immobile. Per quanto riguarda invece i motocicli, se si cambia il vecchio due ruote, Euro 0 o Euro 1, con Euro 3, si potrà usufruire di uno sconto del 10% fino a 750 euro. Lo sgravio raddoppia se si acquista un motociclo dotato di alimentazione elettrica doppia o esclusiva. Vale il 20% sino ad un massimo di 1.500 euro. Allora, avete sentito la rosa generica degli interventi. Adesso direi di, prima di cominciare addirittura ad interagire con Luca De Stefani e Claudio De Viti, i nostri ospiti di questa mattina, direi che cominciamo subito a soddisfare le vostre domande in modo che concretizziamo molto puntualmente le questioni che vi stanno particolarmente a cuore. Allora, direi di cominciare con Andrea dalla provincia di Forlì Cesena. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Siccome mia mamma ha cambiato la cucina e gli elettrodomestici un mese fa, sì, volevo sapere se era possibile anche per lei avere gli sgravi oppure se andrà solo per quelli che comprano dopo l'entrata in vigore del decreto. Eh sì, esattamente Andrea, tutti questi incentivi per la cucina nuova, per il componibile nuovo, per gli elettrodomestici nuovi entrano a regime il 6 aprile. Luca De Stefani, cominciamo subito a mettere il primo puntello sulla nuova, sì, partita di incentivi, quindi Andrea è fuori, certo, purtroppo. Certo, il decreto varato venerdì scorso deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dopo la pubblicazione di questo decreto generale vi sarà il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico che nei prossimi giorni verrà varato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Devo comunque dire sì, no, che Andrea è stato anche sfortunato perché c'erano sia gli incentivi dello scorso anno e quest'anno li avevano promessi a più riprese, poi non arrivavano e arrivano alla fine di marzo, quindi naturalmente chi non poteva procrastinare questo acquisto ovviamente l'ha già fatto nel frattempo. De Stefani. Certo, difatti lo scorso anno c'era la possibilità per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, televisioni e computer di avere uno sconto IRPEF del 20%. L'importante è che questi beni fossero destinati ad abitazioni ristrutturate. Infatti. Quindi scaduta questa agevolazione il 31/12, non è stata prorogata per il 2010 ed ecco che i prossimi incentivi solo per i mobili, per le cucine componibili e anche gli elettrodomestici, quindi non per televisione e per computer, sono in vigore, partono dal 6 aprile. Esatto, e tra l'altro bisognerà anche sbrigarsi ed essere piuttosto veloci nella richiesta degli incentivi, perché anche quest'anno ci sarà un meccanismo particolare per la richiesta, il ruolo particolare delle Poste Italiane che attiveranno un call center per le informazioni. Adesso entriamo anche nel merito di questo, precisiamo di nuovo, lo ha già fatto De Stefani, però magari soffermiamoci su questo punto. Gli incentivi per l'acquisto di cucine componibili o di nuovi elettrodomestici in questo caso, in questa partita, non sono vincolati alla ristrutturazione della casa. Certo, esattamente. È uno sconto che viene praticato direttamente dal negoziante e quindi non vi è nessun particolare adempimento da parte dell'acquirente, questo deve comunque consegnare la vecchia cucina e i vecchi elettrodomestici al negoziante, che poi provvederà allo smaltimento. Ah, ecco, c'è la contestuale rottamazione però del vecchio mezzo. Ah, certo, ecco, certo. Questo non avevo capito, quindi in sostanza c'è un altro impegno, non possiamo in sostanza quindi, come dire, buttare nella discarica la vecchia lavastoviglie, ma ridarla al rivenditore presso il quale compriamo il nuovo elettrodomestico e grazie al cui acquisto appunto otteniamo l'incentivo. Certo, infatti il negoziante dovrà spedire telematicamente al Ministero dello Sviluppo Economico la carta d'identità dell'acquirente, lo scontrino fiscale emesso e anche i documenti attestanti la dismissione del bene sostituito. Che insomma il vecchio elettrodomestico è passato a miglior vita. Benissimo, intanto qualche cosa l'abbiamo già capita e mi sembra che non sarà niente di difficile, tutto sta a capire come funzionerà il meccanismo, come dire, anche della prenotazione del nuovo elettrodomestico, perché chiaramente bisognerà sbrigarsi. Il bonus vale fino al 31 dicembre, questo riconosciuto, però il meccanismo è a capienza, ci sarà uno stop alle richieste che interverrà quando si esauriranno le risorse stanziate per quel bene, per cui potrebbe essere che le risorse disponibili finiscano prima. E questo è proprio un po' il timore degli industriali delle due ruote. Claudio De Viti, direttore sezione moto dell'ANCMA, ancora buongiorno, stamattina l'ho salutata due volte, ci risentiamo. Buongiorno. E quindi proprio il vostro timore è che questi 10 milioni di euro che vi hanno messo a disposizione per l'acquisto di motocicli e 2 milioni per i motocicli elettrici si esauriscono praticamente in un mese? Ma in molto meno di un mese, non è un timore, è una certezza. Si pensa che normalmente in aprile si vendono 48.000 veicoli e questi incentivi bastano al massimo per 25.000 veicoli termici e altri 1.300 elettrici, è chiaro che si esauriscono prima, tranne quelli degli elettrici, visto che sono stati venduti soltanto 340 pezzi l'anno scorso, quindi anche se raddoppiassero non siamo certi di utilizzare tutto il fondo destinato agli elettrici. Per questo motivo noi avremmo preferito un accorpamento della cifra in un totale di 12 in modo tale milioni. Che ognuno insomma potesse scegliere il mercato possa scegliere. Beh, ma sa, questo comunque se lo ricorda anche l'anno scorso, è un settore sul quale si è intervenuto diverse volte, proprio anche, come dire, in termini di aggiustamento. Non è detto che una volta che si verifichi proprio tutto quello che lei già stava anticipando, magari intervenga un nuovo meccanismo di aggiustamento, perché affinché magari le risorse per i motocicli elettrici non utilizzate vengano travasate dall'altra parte, chi lo certo, sa? Certo, certo, però è importante capire subito quali sono i meccanismi. Se non abbiamo questo decreto attuativo, il 6 aprile è molto vicino, ci sono anche le vacanze di Pasqua in mezzo. Sarebbe bene conoscere il prima possibile qual è il sistema di prenotazione. Dovranno predisporre un sistema molto potente per accogliere tutte le migliaia di richieste che si presenteranno il 6 mattina. Infatti, anche perché ricordiamolo ancora una volta, abbiamo fatto anche questa mattina Soldi e Dintorni, l'altra volta per utilizzare gli altri incentivi che erano del Ministero dell'Ambiente, il server del Ministero è andato in tilt più volte, non vorremmo che quest'anno anche i sistemi informatici, soprattutto dei rivenditori, subiscano la stessa sorte. De Viti? Cioè, non solo, ma noi abbiamo anche bisogno come case costruttrici e importatrici di comunicare i destini ufficiali. Non è pensabile che ciascun concessionario stabilisca un prezzo a piacere, perché altrimenti sullo stesso modello c'è chi applicherà lo sconto del 10% su un determinato prezzo e un altro su un prezzo differente. Certo. I listini devono essere ufficializzati dalle case e da qui si deve partire, poi ciascuno sarà libero di fare ulteriori sconti promozionali. Benissimo. Eccoci ritrovati. Allora, questa mattina stiamo così un po' esplorando insieme a voi i nuovi incentivi che sono stati varati dal governo venerdì scorso, una nuova campagna di bonus per l'acquisto, per esempio, della nuova cucina componibile della nostra abitazione, di nuovi elettrodomestici, ma anche di motocicli, e stiamo soprattutto soffermandoci su questi ambiti dell'intervento di venerdì scorso. Poi nelle prossime trasmissioni ci occuperemo anche della ecocasa, ci occuperemo anche delle procedure più veloci per la manutenzione straordinaria dell'abitazione. Allora, Luca De Stefani, nostro esperto di temi fiscali per Il Sole 24 Ore, sul tema della sostituzione della cucina in casa o di nuovi elettrodomestici, molti ascoltatori ci stanno chiedendo: sì, ma quali condizioni dobbiamo soddisfare per poter avere questi incentivi? Allora, non sono condizioni che riguardano i contribuenti, cioè non devo ristrutturare casa, come abbiamo detto, perché molti ci chiedono anche se sono opportunità che si danno a chi, per esempio, sta acquistando adesso l'abitazione. No, sono tutti requisiti che attengono sostanzialmente a ciò che si compra, all'elettrodomestico, alla cucina, De Stefani, ma non a noi contribuenti. Certo, diciamo che tutte le agevolazioni del decreto incentivi riguardano sia i privati che i professionisti che le imprese, quindi anche le imprese sono coinvolte a questi sconti. Mm. Non sono delle detrazioni. Mi ha rubato la domanda di un ascoltatore che era pronto, ma poi gliela faccio fare lo stesso. Ok, bene. Non sono degli sconti fiscali, ma sono dei contributi, degli incentivi, degli sconti, quindi applicati direttamente sul prezzo di acquisto della cucina, dell'elettrodomestico, e sono gli adempimenti da fare sono effettuati soprattutto dal venditore. Per quanto riguarda l'acquirente, deve solamente riconsegnare i vecchi elettrodomestici, la vecchia cucina, e questi devono essere poi smaltiti dal negoziante. E quindi c'è proprio anche la rottamazione dell'elettrodomestico. Mi pare di aver capito anche, tra l'altro, che i mobili, per poter avere diritto allo sconto, devono essere accompagnati dalla cosiddetta scheda prodotto. Adesso centriamo su questo dettaglio. Allora, Valerio dalla provincia di Livorno ha sentito, Luca De Stefani mi ha bruciato la domanda sul settore professionale, ma potete essere accontentati anche voi, se non ho capito male. Esatto, infatti volevo sapere per chi, diciamo, ne fa un utilizzo professionale. Io nello specifico ho un noleggio di imbarcazioni con bar e ristoranti, quindi sia per i motori marini che per gli elettrodomestici. E poi, mi sembra di aver già capito, comunque lo chiedo, diciamo, è soltanto un cambio del vecchio per il nuovo, o chi acquista, diciamo, prodotti elettrodomestici che non aveva prima, quindi nuovi, e quindi non ha niente da dare indietro, accede a questi... Valerio, la ringrazio, risentiamo ancora su questi punti Luca De Stefani. Sì, per la maggior parte degli incentivi si tratta di un acquisto di un nuovo prodotto, di un nuovo bene, in sostituzione, quindi è prevista la rottamazione, di un vecchio elettrodomestico. L'eccezione riguarda appunto l'ecocasa, ovviamente, i rimorchi, le macchine agricole. Anche per le macchine agricole, pardon, è necessaria la sostituzione di una vecchia macchina agricola, ma comunque per i rimorchi, per gli inverter e i motori non è necessaria nessun tipo di rottamazione. Benissimo. Tra l'altro c'è anche l'esclusione clamorosa della lavatrice in questa partita di sconti, De Stefani. Sì, qua certo. Diamo qualche famiglia. No. Certo, è invece agevolata la lavastoviglie, deve però avere una classe energetica e di lavaggio e di asciugatura non inferiore alla classe A. E infatti, lo diceva molto bene Carmine Fotina, collega del Sole 24 Ore, domenica, ieri, cioè rifacendo proprio un po' il punto su tutti questi sconti. Ecoefficienza innanzitutto, il pacchetto incentivi varato venerdì è un provvedimento molto selettivo, un fondo di 300 milioni legato a obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza del lavoro. Ci sono altri ascoltatori, allora ritorniamo alle due ruote. Fabio da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, io abbiamo fatto contratto per l'acquisto di una moto e l'abbiamo fatto il 9 del 3. 9 marzo, sì. Sì, e si potrebbe usufruire di una rottamazione di agevolazione per l'acquisto del nuovo moto. Intanto bisogna capire che cilindrata, che tipo di due ruote ha preso, Fabio. Allora, ho preso un 4 tempi e un cinquantino. De Viti, beh, a prescindere dalle caratteristiche dello scooter di Fabio, non ha anche lui l'opportunità, visto che i nuovi partono ad aprile. Esatto, valgono solo per i contratti sottoscritti a partire dal 6 di aprile, e comunque per quanto riguarda i cinquantini sono esclusi da questa campagna, perché è rivolta ai motocicli Euro 3 e i cinquantini non hanno ancora questa omologazione, perché a livello di comunità europea ancora non è stata scritta l'omologazione Euro 3. Allora, rifacciamo un po' il punto con lei. Però ci sono quelli del Ministro dell'Ambiente che potranno usufruirne. Quelli sono ancora validi, sono i famosi vecchi, quelli che avevano intasato i server l'anno scorso, e quelli quando scadono? Quelli sono anche loro a consumo, ma ci sono ancora dei fondi disponibili e quindi sono accessibili. Quindi potrebbe eventualmente chiedere quelli, Fabio? Se ha fatto la rottamazione, sì, però è passato un po' di tempo. È passato fino al 9 marzo, certo che il rivenditore avrebbe potuto dargli anche qualche informazione in più. Qualche volta i rivenditori preferiscono fare uno sconto to court senza ricorrere a questa burocrazia. burocrazia, diciamo, di richiesta di rimborso e quant'altro. Allora, andiamo ai 10 milioni che per voi sono pochi, ma in ogni caso sono previsti per l'acquisto di motocicli. Che tipo di mezzo devo avere da rottamare, dei viti, e quale devo comprare per poter ottenere questo sconto, che è del 10% del costo e nel limite massimo di 750 euro. Si possono demolire sia cinquantini sia prodotti di cilindrata superiore, purché siano omologati Euro 0 o Euro 1, quindi sostanzialmente tutti i veicoli che hanno da 10 anni di vita in poi, ecco. E bisogna acquistare un veicolo che non superi i 70 kW di potenza, quindi sono compresi, direi, la totalità degli scooter e una parte delle moto con potenza intermedia. Abbiamo detto che anche qui funzionerà in sostanza ad esaurimento del bonus, quindi anche chi gara alla prenotazione. E allora, un po' come abbiamo fatto stamattina, soldi e dintorni, dottor De Viti, diamo qualche indicazione di massima su come trovarci preparati qualora fossimo intenzionati a fare un po' come i giapponesi quando partono gli sconti in via Monte Napoleone, presentarsi al rivenditore alle 4 del mattino, magari non dico pure alle 6, e quindi bussare abbastanza presto alla porta di questo affinché ci faccia prenotare subito il mezzo che vogliamo. Quindi adesso non vorrei essere così estrema e radicale, però forse intanto, funzionerà così. Intanto credo che dopo 3 mesi che si parli di incentivi, ormai molti dei clienti abituali ai concessionari sanno e avranno cominciato a preparare una bozza di contratto che però dovrà essere perfezionato e finalizzato solo a partire dal 6 aprile, quando avranno la certezza appunto di poter accedere al fondo. È per questo che dicevo è molto importante che funzioni bene sia internet sia il call center, che avrà, immagino, ma sono tutte cose che ci basiamo così su indiscrezioni, ma dobbiamo leggere questo decreto attuativo. Infatti, immagino avrà un numeratore che a poco andrà a consumare i fondi disponibili. Senta, lei diceva prima, riferendosi all'esperienza dell'ascoltatore che ha già acquistato il cinquantino e dice magari se non ha utilizzato l'incentivo dell'altra partita, quella del Ministero dell'Ambiente, avrà potuto ottenere magari un incentivo da parte del rivenditore. Ecco, in questa nuova partita di incentivi invece, come fa a recuperare il rivenditore? Perché ho letto che dovrà farlo o potrà farlo presso gli sportelli delle poste? Una nuova procedura, mi pare. Infatti qui non c'è un discorso di coinvolgimento delle case, perché non ci sono crediti d'imposta e di conseguenza dovrà essere direttamente coinvolto il distributore, che da un lato prima si accerta che ci siano i fondi, li prenota e di conseguenza poi con il contratto, con la fattura in mano, immagino, può rivolgersi a livello mensile, ho letto, ma anche queste sono sempre indiscrezioni, per avere il rimborso di quanto lui ha erogato. Non è mai stata fatta una pratica di questo tipo in passato? No. E quindi anche qui speriamo di non doverne vedere delle belle, perché magari per non avventurarsi in un tipo di richiesta di riaccredito del genere, magari il rivenditore proprio, come dire, pratica uno sconto così un po' più forte al possibile acquirente, magari per tenerselo e non farlo andare presso un altro rivenditore che invece fa lo sconto del governo, non lo so. Non facciamoci la testa prima di romperla, però io credo che il risultato di questi incentivi, che avranno appunto una fiammata in aprile, sarà che nei mesi successivi in qualche modo tutti i rivenditori saranno in qualche modo costretti a concedere in ogni caso degli sconti a tutti quelli che saranno rimasti esclusi. Questo inciderà sicuramente sui mezzi. Certo, però come dicevamo, insomma, forse invece che niente meglio queste briciole, perché meglio qua piuttosto. Veramente navighiamo in un momento in cui non c'è niente per nessuno. Massimo dalla provincia di Modena, facciamo fare la sua domanda mi sembrava che fosse quello della Eco Casa, ma l'ascoltatore che era in attesa su questo argomento è caduto. Massimo, sentiamo lei, buongiorno da Modena. Buongiorno, credo di avere già capito, ma richieda, non si sa mai. Per una precisazione, io ho un appartamento per investimento come seconda casa, stavo valutando l'ipotesi di arredarlo. Sì. E mi sono già mosso, ho già chiesto alcuni preventivi, diciamo che una cucina completa mi costerebbe circa sui 15.000 euro. Assodato che i 1.000 euro ci dovrebbero stare, perché supero quindi il 10%, chiedevo, però non avendo nulla da rottamare, che cosa posso fare? Certo, perché allora adesso entro nella casistica. Allora, adesso dobbiamo dare qualche dettaglio in più su come si ottengono questi sconti, varati ancora, lo ricordo, dal governo venerdì scorso per l'acquisto di una cucina nuova, di nuovi elettrodomestici con la contestuale rottamazione di elettrodomestici vecchi. Abbiamo sentito la domanda di Massimo dalla provincia di Modena, che sta pensando di arredare la sua seconda casa, perché probabilmente vuole affittarla, quindi la vuole mettere nelle migliori condizioni possibili, per cui non ha una vecchia cucina da rottamare, quindi in questo caso come deve comportarsi, ci metterà insieme, tutto questo è un tema che affronterò con Luca De Stefani, ci metterà insieme la domanda anche di Riccardo da Bologna, che saluto, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiedere questo, praticamente io sto comprando la cucina ma non gli elettrodomestici. Sì. Quindi è tutto ancora valido l'incentivo? Allora, andiamo dal nostro esperto di arredamento, che è il nostro Luca De Stefani, che in questi anni, ovviamente, oltre a fare il commercialista, l'esperto di temi fiscali per il Sole 24 Ore, davvero si è specializzato anche in tutto ciò che attiene alle ristrutturazioni e alla messa nelle migliori condizioni possibili delle nostre abitazioni. Allora, cominciamo con la cucina sì. Componibile. La cucina componibile, la norma dice sostituzione di mobili per cucina in uso con cucine componibili e elettrodomestici da incasso. Direi che comunque, anche se non si comprano gli elettrodomestici ma si acquistano i mobili di cucina, questi rientrano nel bonus. Abbiamo uno sconto del 10% con un limite massimo di 1.000 euro. Esattamente. Cosa vuol dire che questi mobili da cucina devono essere accompagnati dalla scheda prodotto, come recita il decreto, De Stefani? Dove la prendiamo questa scheda? No, è il produttore che ce l'ha questa scheda prodotto, e devono avere dei requisiti di sicurezza, ad esempio per quanto riguarda i piani cottura, i gas, devono avere il dispositivo di sorveglianza della fiamma, ad esempio, devono avere dei requisiti anche per la sicurezza contro gli incidenti in ambito domestico. Quindi sono dei documenti che fa direttamente il produttore. E invece c'è anche un'altra caratteristica particolare che la nuova cucina componibile deve avere: deve essere già predisposta per la raccolta differenziata. Esattamente. Questo è molto importante. Deve avere già i vari cestini sotto il lavello, magari, o comunque in un'altra situazione, in un altro ambito, con la differenziazione appunto dei rifiuti. Però credo che questa caratteristica le nuove cucine l'abbiano già, ma non è detto, quindi sempre meglio fare un controllo, anche perché ovviamente i poveri rivenditori, visto che queste norme arrivano così di punto in bianco da un giorno all'altro, anche loro non è che siano sempre del tutto preparati, e quindi magari anche noi sollecitiamoli un po'. De Stefani, questo è un aspetto che tocco con lei, che ho già toccato prima con De Viti per quello che riguarda i prezzi e i listini, ma un ascoltatore chiede, per la verità ce lo sollecitano in molti questo aspetto: è previsto un controllo prezzi sui prodotti incentivati? Sarà automatico un aumento dei prezzi di vendita da parte dei rivenditori, che così potranno contare su un maggiore introito, chiede un ascoltatore. Ecco, De Viti, per il settore di competenza, ci ha già detto come dovrebbe funzionare. Secondo lei, per gli elettrodomestici, chi può dirlo? Ma diciamo, non ci sono le cucine attualmente approvata, venerdì scorso, la guerra non prevede dei controlli sugli aumenti dei prezzi di questi prodotti. Per cui, ecco, niente, l'unica cosa che si può fare è, come dire, far funzionare il mercato, farci qualche giro intanto per magari, non so, forse abbiamo già un'idea di quanto può costare l'elettrodomestico che ci piace. È chiaro che se notiamo un'esplosione di prezzo improvvisa, magari intanto non fidiamoci di quel rivenditore lì, però ecco, facciamo già un primo controllo, una prima scrematura, e poi andiamo a scegliere quello che ci è sembrato che costi un po' di meno. Magari chiamiamo anche i produttori direttamente, quali sono i listini, perché magari più che i produttori qualche volta sono proprio i rivenditori che magari ricaricano un pochino i margini. Adesso non è che voglio fare tutto l'erba un fascio, però insomma funziona anche così, lo sapevo benissimo. Antonio da Roma. Buongiorno. La chiamavo perché non mi era ben chiaro, sì, di questa offerta che c'era. Se uno non ha da rottamare un frigorifero ma vuole comprarlo nuovo, dico, rientra in questa offerta? Perché può esserci che qualcuno vuole comprare e non ha da rottamare. Infatti. Allora, tra l'altro, De Stefani, ancora con lei. Allora, se guardiamo solo agli incentivi per i singoli elettrodomestici, il frigorifero congelatore è escluso. Sì. Se invece è inserito nella cucina componibile, è incluso nell'incentivo. Pazzesco. Certo. Come... ci ho fatto caso adesso a questa differenza, guardando proprio lo schemino che avevate preparato ieri per il Sole 24 Ore. Per cui, ribadiamo, per il frigo, che succede? Allora, per il frigorifero è necessario comunque la sostituzione di un frigorifero vecchio. Questo riguarda sia gli incentivi nuovi che quelli in vigore fino alla fine di quest'anno, che danno la possibilità di detrarre il 20% dell'importo dell'acquisto nuovo, sia per il frigorifero che per il congelatore. E comunque è sempre necessaria la sostituzione. La sostituzione non è necessaria per gli inverter, i motori ad alta efficienza e anche per i gruppi di continuità, che sono anche questi agevolati fino a 100 euro. Do la lista anche dei prodotti incentivati nella categoria elettrodomestici. Sostituzione di vecchi apparati con contributo massimo da 80 a 500 euro a seconda del prodotto. I prodotti incentivati sono lavastoviglie, con classe energetica ovviamente non inferiore alla classe A, forni elettrici, stessa classe energetica, piani cottura, cappe climatizzate, pompe di calore ad alta efficienza, cucine di libera installazione. Prodotti esclusi, frigoriferi, congelatori, microonde, stufe, asciugabiancheria, piccoli elettrodomestici. E poi Darius, buongiorno, lei voleva intervenire ancora sulla lavatrice. Certo, io mi si è rotta la lavatrice ieri e volevo sapere se mi conviene aspettare questi incentivi per comprare una nuova. Niente da fare, mi sa, Darius De Stefani, ritorniamo lì. Niente da fare. Nell'ambito della cucina componibile. Tra l'altro, la cosiddetta categoria del bianco, tra l'altro una storia che ha fatto anche arrabbiare un po' di produttori, perché sono molto vendute le lavatrici, figuriamoci quanto le abbiamo in casa, per cui davvero sarebbe stato forse una partita interessante. De Viti, io non mi sono scordata di lei, naturalmente, solo che ho dato più spazio agli ascoltatori che hanno chiesto molte informazioni sugli elettrodomestici, ma con lei magari diamo un po' di ABC finale sul eventualmente sul motociclo elettrico. Sì, beh, ci sono alcune case, poche per il momento, che offrono appunto scooter elettrici, e poi esiste un modello ibrido al momento a listino della Piaggio, e quindi su questi prodotti si può ottenere il massimo dello sconto fino a 1500 euro e ci auguriamo tutti che sia un segmento che si sviluppi maggiormente che non in passato. Infatti, anche perché davvero qua dal punto di vista dell'inquinamento, se pensiamo all'impatto ambientale, siamo praticamente quasi a zero. Esatto, sono emissioni zero per quanto riguarda gli elettrici puri e invece molto basse le emissioni per quanto riguarda gli ibridi, che offrono il vantaggio di poter tornare comunque a casa anche quando si esaurisce la batteria. E poi, esatto, incredibile, si ricaricano esattamente come un telefonino a casa questi motorini. Sì, sì. O sono un po' troppo sbrigativa nel... Beh, occorre un certo periodo di tempo, sì, di sosta per ricaricare, perché la tecnologia per oggi non è così immediata, quindi nelle prime due ore si ricarica la maggior parte della batteria, ma se si lascia tutta la notte si riesce a ottenere la ricarica totale. Allora, chi sentiamo adesso? Perché qua continua. Allora, le lavatrici non sono incluse nel pacchetto degli incentivi varati venerdì scorso, lo dobbiamo ricordare. Io lo so che per voi è una grande delusione, magari facciamo questo appello al governo affinché riapra la partita, ci inserisca anche le lavatrici, perché vedo che sono assolutamente, come sempre, non facciamo fatica a immaginare, sono quelle che vanno di più all'interno delle case, per cui bisognerebbe forse aiutare anche questo settore. Sentiamo Francesco da Bari, ultimissima considerazione, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo Francesco, grazie. Volevo solo chiedere, io mi sono affacciato presso un rivenditore di cucine componibili, sì, il quale mi praticava uno sconto 20-25%. Uh-huh. Ora questo sconto che loro praticano di propria iniziativa, sì, va aggiunto anche quello ulteriore dell'incentivo. Quello dipende da che margine ha il rivenditore, Francesco, può farlo. Non vorrei che magari con questa iniziativa non pratichino più gli sconti iniziali che praticavano. Francesco, è come funziona con le case automobilistiche, abbiamo fatto anche questa mattina questo paragone, ci sono gli incentivi fiscali per l'acquisto delle auto nuove molto forti, ma non è detto poi che un concessionario possa a sua volta abbattere ulteriormente il prezzo e praticare uno sconto ulteriore rimettendoci lui. Dipende, ci faccio una chiacchierata con questo De Stefani, che tipo di consiglio possiamo dare al nostro ascoltatore? Ma sì, diciamo che lo sconto applicato dal negoziante va sommato con questo altro 10% che ha fiscale. Se poi ci sono degli aumenti di prezzi, cioè, bisogna cambiare negoziante. Ecco, appunto, vigiliamo, è chiaro che a qualcuno la tentazione potrà venire, insomma, abbiamo questi incentivi adesso, riusciamo a praticarvi questo sconto, ma poi il prezzo di partenza da cui si parte, ovviamente essendo un prezzo di partenza, è un po' più alto, i rischi si corrono, ma insomma speriamo di no, che tutto questo non capiti. Grazie a Luca De Stefani e Claudio De Viti per essere stati con noi, ovviamente è stata una prima puntata di esplorazione, poi gli sconti entrano in vigore dal 6 aprile, cercheremo di capire se chi li vorrà praticare anche nelle migliori condizioni per i consumatori avranno i computer intasati per le prenotazioni. Torneremo presto su questo tema. Nel decreto ci sono tanti altri aspetti che affronteremo nel corso della settimana. Da Deborah Rosciani, intanto buona giornata.